fior che avevi a me tu dato nella prigion io l'ho osservato anche appassito il picciol fior il suo profumo aveva ancor notte di nel carcere oscuro io così carmente lo giuro mi inebriai questo amor malediceva e nel mio dolor ripeteva per qual destin l'ebbia veder sul mio cammino teva orrore e non avevo in questo cuore e non sentia più un sol desir un sol pensier te rivederi Carmen te sorti o mia carne di te lo schiavo amare mio